Capitolo 3. Era piena primavera quando Malinalli fu battezzata. Lei era tutta vestita di bianco, non c'erano altri colori nel suo abito, solo i volumi del ricamo che le ornava. Malinalli conosceva l'importanza dei ricami, del filato e dell'arte piumaria e per l'occasione aveva scelto un huipil, cerimoniale, pieno di significati, ricamato con le sue mani. Gli huipil parlano, rivelano molte cose della donna che li ha confezionati, del suo tempo, della sua condizione sociale, del suo stato civile e della sua connessione con il cosmo. Mettersi un huipil è una vera e propria iniziazione. Ogni mattina, quando ne indossa uno, la donna ripercorre il cammino dall'interno verso l'esterno, infilando la testa nel buco dell'huipil attraverso il mondo dei sogni, il ricamo, per uscire alla vita che ricompare quando la testa sbuca fuori dal tessuto. Questo svegliarsi alla realtà è un rito mattutino che giorno dopo giorno ricorda alla donna il significato della nascita. L'huipil si infila tenendo al centro la testa, che risulta coperta davanti, dietro e sui lati. La croce, formata dalla tela ricamata dell'huipil, significa che la donna è saldamente impiantata al centro dell'universo, illuminata dal sole e avvolta dai quattro veli, dalle quattro direzioni, dai quattro elementi. Così si sentiva Malinalli, con addosso il suo bello huipil bianco, pronta per il battesimo. Per lei quella cerimonia era importantissima e le emozionava profondamente sapere che lo era anche per gli spagnoli. Anche i suoi antenati la celebravano a modo loro. La nonna l'aveva battezzata una prima volta subito dopo la nascita. Poi qualcuno avrebbe potuto ripetere il rito al suo 13° compleanno, ma nessuno ci aveva pensato e a lei era dispiaciuto moltissimo. Nella sua cultura il numero 13 era carico di significati. Ci sono 13 lune nell'anno solare e 13 mestruazioni. 13 erano le case del calendario sacro dei Maya e dei Mexica. Siccome ogni casa era composta da 20 giorni, la somma delle 13 case moltiplicate per 20 giorni dava un risultato di 260 giorni. Alla sua nascita, ogni persona dà inizio sia al calendario solare di 365 giorni, sia a quello sacro di 260, che non coincidono più finché non si compiono 52 anni. Un ciclo completo, dopodiché si ricomincia a contare da capo. Sommando il 5 e il 2 del 52 si ottiene 7. Anche questo è un numero magico, perché ciascuna delle quattro fasi della Luna è composta da 7 giorni. Malinalli sapeva che nei primi 7 giorni, quando la Luna si trova tra la Terra e il Sole, quando la notte è buia perché l'astro non è ancora morto o comincia appena a mostrarsi, bisogna stare in silenzio. Solo così tutto ciò che è in procinto di nascere può farlo liberamente senza interferenze. È il momento più adatto per sentire quale sarà l'obiettivo principale dell'attività da realizzarsi nel successivo ciclo lunare. È la nascita del proponimento. Nei 7 giorni seguenti, quando la Luna sorge a mezzogiorno e tramonta a mezzanotte, mostrando solo mezza faccia, è il momento per cercare di realizzare ciò che ci si è proposti. Quando la Luna si trova più vicina alla Terra e riflette pienamente i raggi del Sole, allora è il momento di festeggiare e di condividere con gli altri i risultati raggiunti. Gli ultimi 7 giorni, infine, quando la Luna mostra l'altra metà, sono quelli in cui bisogna ricapitolare tutto ciò che si è fatto nei 28 giorni precedenti. Tutti questi concetti relativi al tempo accompagnano ciascun essere umano fin dal momento della nascita. Malinalli era nata nella casa numero 12. La data di nascita segna il destino della persona e anche Malinalli, secondo la tradizione, portava il nome della casa in cui era nata. Il significato del 12 è la resurrezione. Il glifo che corrisponde al giorno numero 12 è un teschio visto di profilo, raffigurazione di tutto ciò che muore o si trasforma. Al posto dei capelli, sul cranio c'è del Malinalli, una fibra detta anche zaccate del carbonaio. Il glifo numero 12 allude alla morte che avvolge il figlio morto donandogli il riposo. Rappresenta l'unità o anche la madre che strappa la morte e il fagotto di un corpo avvolto nel poncio e legato con il Malinalli, lo zaccate sacro, per restituirlo all'unità del tutto e partorirlo di nuovo. Il Malinalli simboleggia sia il popolo sia la città strega di Malinalco, fondata dalla dea lunare terrestra Malinal Xochitl, detta anche Fiore di Malinalli. Curiosamente, era fatto di Malinalli il mantello che Juan Diego indossava quel giorno del 1531, in cui gli apparve la Vergine di Guadalupe, sorretta da una falce di luna, nel dodicesimo giorno del dodicesimo mese, 12 anni dopo lo sbarco di Hernán Cortés in Messico. Malinalli era orgogliosa dei molti concetti contenuti nel suo nome e aveva cercato di rappresentarli tutti nell'huipil, che per molte lune aveva ricamato per indossarlo il giorno del suo battesimo. Era nato nel silenzio quel bisogno di ricamare, e solo in quel momento Malinalli capì di aver fatto la cosa giusta. Quell'huipil era il più idoneo a essere indossato durante l'agognata cerimonia del battesimo. Era fatto di un filo di seta che lei stessa aveva filato e poi tessuto sul telaio. Aveva incrostazioni di conchiglie marine e di piume preziose. Sul petto Malinalli aveva ricamato il simbolo del vento in movimento circondato da serpenti piumati. Quell'abito era un vero e proprio messaggio cifrato e certamente gli emissari del suo signore, Quetzalcoatl, avrebbero saputo interpretarlo e tenerlo nella giusta considerazione. Era vestita come una fedele credente, eppure nessuno sembrava accorgersene. Malinalli aspettava ansiosamente il cenno che le avrebbe detto che era stata riconosciuta, ma l'unico che sembrava stupito di vederla così vestita era un cavallo che si abbeverava al fiume e che non le tolse gli occhi di dosso per tutta la durata della cerimonia. Malinalli se ne accorse e fra i due nacque un'affettuosa amicizia. Dopo la messa, Malinalli si avvicinò a Frate Aguilar per domandargli che significato avesse il suo nuovo nome, Marina. Lui rispose che Marina significa colei che viene dal mare. Tutto qui? Domandò Malinalli e il frate rispose semplicemente sì. La delusione le si dipinse negli occhi. Aveva sperato che gli invitati di Quetzalcoatl avrebbero scelto per lei un nome più ricco di significati. A darglielo non erano stati dei semplici mortali, ignari del significato profondo dell'universo, bensì degli iniziati, o almeno così supponeva. Quel nome dunque doveva avere un significato importante. Provò a insistere, ma il frate aggiunse solo che l'avevano scelto perché aveva una certa somiglianza fonetica con Malinalli. No, proprio non voleva crederci, ma in fondo era la sua grande giornata e non voleva lasciarsi abbattere. Si mise quindi a nobilitare lei stessa il suo nuovo nome. Se Malinalli significava erba intrecciata e l'erba e in generale tutte le piante hanno bisogno d'acqua e il suo nuovo nome era legato al mare, allora significava che lei sarebbe vissuta in eterno, perché l'acqua è eterna e l'avrebbe alimentata per sempre. Lei, l'erba intrecciata, sì, era proprio quello il significato del suo nome. Subito volle pronunciarlo, ma non ci riuscì. La R di Marina le si strozzava sulla punta della lingua. E dopo molti tentativi, il meglio che riuscì a dire fu Malina. Fu una frustrazione terribile per lei. L'aveva sempre meravigliata che con lo stesso apparato vocale gli esseri umani potevano emettere tanti suoni differenti. Essendo una buona imitatrice, Malinalli non capiva perché quella R le riuscisse tanto difficile. Chiese al frate di pronunciare più volte il suo nome e lo ascoltò senza staccare gli occhi da quelle labbra che ripetevano pazientemente Marina. Marina. Vide così che per pronunciare bene la R bisognava mettere la lingua dietro ai denti, ma solo per un istante. La sua lingua, però, oltre a mettersi sempre soltanto dietro il palato, come era abituata a fare, non si muoveva abbastanza veloce, vanificando ogni suo sforzo. Era evidente che bisognava fare molto esercizio e Malinalli non intendeva certo darsi per vinta. Fin da piccola aveva esercitato la sua lingua a riprodurre i suoni. Quando aveva 1 anno le piaceva balbettare, fare rumori con la bocca e bollicine di saliva, imitare tutti i suoni che sentiva. Ascoltava sempre con molta attenzione il canto degli uccelli, l'abbaiare dei cani. Avvolta dal silenzio della notte, cercava di captare suoni lontani, di identificare l'animale che emetteva un certo suono per poi imitarlo. Fino all'arrivo degli spagnoli, quel metodo d'apprendimento si era rivelato efficace, ma ora la nuova lingua era entrata nella sua vita ponendole nuove e difficili sfide. Per combattere la frustrazione, volle provare con un'altra parola e decise di interrogare il frate sul suo dio. Desiderava sapere tutto di lui, quali fossero il suo nome e i suoi attributi, che cosa si dovesse fare per avvicinarlo, per parlargli, per festeggiarlo, per lodarlo. Le era piaciuto moltissimo nel sermone del battesimo, che Aguilar stesso aveva tradotto per loro, apprendere che gli spagnoli volevano liberarli dagli inganni dei falsi dèi che esigevano sacrifici umani, che il vero Dio, quello che loro erano venuti a portare, era buono e amorevole e non avrebbero mai voluto una cosa del genere. Agli occhi di Malinalli, quel dio misericordioso poteva essere solo Quetzalcoatl, che con un nuovo aspetto era tornato su quelle terre per instaurare il proprio regno e avviare una nuova era di armonia cosmica. Anelava a dargli il benvenuto a parlare con lui. Chiese dunque al frate di insegnarle a pronunciare il nome del suo Dio. Aguilar lo fece con molta gentilezza e Malinalli, emozionatissima, scoprì che quella parola, non contenendo alcuna R, non le risultava affatto difficile. Batté le mani per la gioia come una bambina piccola. Era felice. Ogni volta che riusciva a pronunciare il nome che un certo gruppo attribuiva a un oggetto, provava una strana sensazione d'appartenenza. Immediatamente si sentiva complice, amica, parte di una famiglia. Tutto ciò la colmava d'allegria perché non c'era niente che le desse fastidio, quanto il sentirsi esclusa. Subito Malinalli chiese al frate come si chiamasse la sposa di Dio. Aguilar le rispose che non ne aveva. Allora chi è la donna con il bambino in braccio che avete messo nel tempio? È la madre del Cristo, di Gesù Cristo, venuto sulla terra per salvarci. Era una madre, la madre di tutti loro. Allora non poteva essere altri che la sua signora Tonan Sin. Non per niente, quando il frate aveva celebrato la messa del battesimo, Malinalli si era sentita avvolgere da una sensazione stranissima che non avrebbe saputo come spiegare. Era una specie di nostalgia delle braccia materne, un desiderio di sentirsi avvolta, abbracciata, sostenuta, protetta da sua madre, come in un tempo remoto doveva pure essere accaduto, da sua nonna, come era sicuramente accaduto, da Tonantzin, come sperava che un giorno sarebbe accaduto. Da una madre universale che somigliasse un po' a quella donna con il figlioletto in braccio. Una madre che non la regalasse ad altri, che non la lasciasse andare, che non la buttasse via, ma che al contrario la sollevasse verso il cielo, offrendola ai quattro venti e permettendole di ritrovare la purezza. Questi i pensieri che l'accompagnavano mentre il sacerdote spagnolo officiava la messa in una lingua che non capiva, ma che colpiva la sua immaginazione. Anche Cortés, come Malinalli, quel giorno ripensò a sua madre, a tutte le volte che l'aveva condotto per mano in chiesa a pregare affinché la sua salute di bambino, sempre malato, potesse migliorare, alla sua costante preoccupazione di aiutarlo a superare il problema della bassa statura, della debolezza fisica e della condizione di figlio unico. In una società dominata dalla casta militare, caratterizzata da frequenti rissi di strada, uno come lui sembrava destinato al fallimento. Forse per questo i suoi genitori si erano dati tanto da fare per garantirgli una buona formazione. Nel corso della messa, Cortés ripensò al momento in cui aveva preso congedo da sua madre prima di partire per il nuovo mondo. Rivide la sua tristezza e le sue lacrime e il quadretto della Vergine di Guadalupe che le aveva regalato affinché lo tenesse sempre con sé. Cortés era sicuro che fosse stata quella Vergine a salvargli la vita quando era stato morso dallo scorpione, e anche in quel momento si rivolse a lei per chiederle di non abbandonarlo, di prendersi cura di lui, di essere la sua alleata, di aiutarlo a trionfare. Voleva dimostrare a sua madre di poter diventare qualcosa di più di un umile paggio al servizio del re. Pur di riuscire, era disposto a tutto, a disobbedire agli ordini, a battersi, a uccidere. Essere diventato sindaco di Santiago di Cuba non gli bastava. Non avrebbe seguito le istruzioni del governatore Diego Velázquez, che le aveva raccomandato di non correre rischi inutili, di essere prudente con gli indigeni, di limitarsi a scoprire i segreti di quelle terre e a cercare di ritrovare Grijalva, il capo della precedente spedizione. Il suo doveva essere un viaggio d'esplorazione, non di conquista, realizzato al fine di scoprire, non di ripopolare. Velázquez voleva che lui esplorasse la costa del Golfo e tornasse a Cuba con qualche tributo in oro ottenuto con mezzi pacifici, ma le ambizioni di Cortés andavano ben al di là di tutto questo. Se sua madre avesse potuto vederlo mentre conquistava nuove terre, scopriva posti nuovi e nominava nuovi oggetti. Il senso di potere che sperimentava quando dava nome a una cosa, a una persona, era paragonabile solo a quello che si trova nel dare alla luce. Le cose che lui nominava nascevano in quell'istante, iniziavano una nuova vita a partire da lui. Purtroppo a volte l'immaginazione gli veniva meno. Cortés era bravo con le strategie, con le alleanze, con le conquiste, molto meno a immaginare nuovi nomi. Forse per questo ammirava tanto la sonorità e la musicalità delle lingue Maya e Nahuatl. Lui non sarebbe mai stato capace di inventare nomi come Quiasultlán o Tlaquistlán, Tlapacoyan, Itzacamitlán o Potoncan, e doveva accontentarsi dello spagnolo per nominare in modo più convenzionale i luoghi e le persone che cadevano in suo potere. Il villaggio Totonaca di Chalquicuellacan, per esempio, aveva battezzato Veracruz perché c'era arrivato il 22 aprile del 1519, che era venerdì santo, ovvero il giorno della vera croce, Veracruz. Allo stesso modo aveva scelto il nome da dare alle indigene che gli erano appena state regalate. Nomi comuni che non gli erano costati troppa fatica. Ciononostante, aveva seguito con entusiasmo la messa di battesimo. Lo commuoveva il fervore che vedeva riflesso negli occhi degli indigeni, anche se per loro la messa era un evento del tutto nuovo. Non sapeva che per gli indigeni il fatto che i loro dei potessero cambiare nome o forma non costituiva affatto un problema. Ogni divinità era già conosciuta con due o più nomi e veniva rappresentata in modi diversi. Anche il fatto che ora ci fosse una vergine spagnola in cima alla piramide, dove fino al giorno prima avevano adorato antiche divinità, per cui la gente poteva essere superato con la fede. Cortés, che pure da bambino era stato frate minore, non aveva mai visto tanta fede riunita in un unico luogo e pensò che se gli indigeni, invece di adorare un dio sbagliato, avessero offerto con altrettanto impegno la loro devozione al vero dio, sicuramente sarebbero stati in grado di operare molti miracoli. Questa riflessione lo portò a concludere che forse era proprio quella la sua vera missione: riscattare gli indigeni dalle tenebre, fargli conoscere la vera religione, porre fine all'idolatria e cancellare la nefasta pratica dei sacrifici umani. Ma per riuscirci doveva prendere il potere, cioè affrontare e sconfiggere il grande impero di Montezuma. Con tutta la fede di cui era capace, Cortés chiese alla Vergine di Guadalupe di farlo uscire vittorioso dall'impresa. Lui era un uomo di fede. La fede lo elevava, lo faceva sentire più grande, lo trasportava fuori dal tempo. E proprio mentre con più fervore chiedeva l'aiuto divino, i suoi occhi incrociarono quelli di Malinalli. Scoccò una scintilla materna e i desideri di quelle due persone che non si erano mai viste prima si incrociarono. Malinalli sentì che quell'uomo poteva proteggerla, Cortés che quella donna poteva aiutarlo come solo le madri sanno fare, incondizionatamente. Nessuno dei due riuscì a capire da dove nascesse quella sensazione, ma così l'avvertirono e così l'accolsero. Forse fu l'atmosfera del momento, l'incenso, le candele, i canti, le preghiere. Fatto sta che entrambi tornarono con la mente alla fase più innocente della loro vita, l'infanzia. Malinalli sentì il suo cuore infiammarsi al calore delle mille candele che gli spagnoli avevano acceso, laddove prima si adoravano le antiche divinità. Era la prima volta che vedeva le candele. Le era capitato di accendere torce o incensieri, mai candele, e quei piccoli fuochi, quei mille riflessi di luce, le sembravano una cosa assolutamente magica. La stupiva che tanta luce potesse emanare da lumi così minuscoli. Ascoltò ciò che il fuoco le diceva, con tutte quelle vocette, e all'improvviso vide la voce delle candele riflessa negli occhi di Cortés. Fu lui a distogliere lo sguardo per primo. La fede lo innalzava, ma gli occhi di Malinalli lo restituivano alla realtà, alla carnalità, al desiderio. Non voleva che la loro brillantezza lo distraesse dai suoi progetti. Stava assistendo alla messa ed era sul punto di gettarsi in un'impresa che avrebbe dovuto rispettare e far rispettare. Tutti i partecipanti alla missione avevano giurato di non toccare l'indigene, eppure sentiva un'attrazione fortissima per quella donna e dominare l'istinto gli costava uno sforzo immane. Per sottrarsi alla tentazione, decise quindi di destinarla al servizio di Alonso Hernández Portocarrero, un nobile spagnolo che l'aveva accompagnato fin lì da Cuba e con il quale voleva restare in buoni rapporti. Dargli quell'indigena per il suo servizio personale era un modo per adorarlo, per ringraziarlo. Era evidente a tutti che Malinalli spiccava tra le altre schiave, camminava con passo sicuro, era disinvolta e radiava signorilità. Quando seppe della decisione di Cortés, Malinalli ebbe un tuffo al cuore, era il segnale che stava aspettando. Se Cortés, il capo principale degli stranieri, le ordinava di servire quell'altro signore, che sembrava anche lui un rispettabile Tlatoani, forse era perché aveva visto del buono in lei. Certo, le sarebbe piaciuto moltissimo restare al servizio diretto di Cortés, il capo principale, ma non si lamentava della sua sorte. Aveva fatto buona impressione e la sua esperienza di schiava le aveva insegnato che fare buona impressione era importantissimo, al fine di condurre un'esistenza il più degna possibile. Portocarrero apprezzò il gesto, ma Malinalli, la donna bambina, era bella e sveglia, pronta a obbedire a servire. Il primo compito che le assegnò fu di accendere il fuoco e preparargli qualcosa da mangiare. Malinalli si accinse subito a farlo. Cercò dei pezzi di ocote, un legno ricco di resina, ottimo per accendere il fuoco, e li sistemò in una croce di Quetzalcoatl, passo indispensabile nel rituale del fuoco. Quindi prese un legnetto secco delle dimensioni adatte e cominciò a sfregarlo sulle bacchette di ocote. Malinalli sapeva trattare con il fuoco come nessun'altra, non aveva mai problemi di accenderlo, eppure proprio in quell'occasione così importante pareva che il fuoco fosse adirato con lei. La croce di Quetzalcoatl non voleva saperne di accendersi. Malinalli si domandò perché. Forse il suo signore Quetzalcoatl ce l'aveva con lei, ma perché? Lei non l'aveva tradito, anzi, aveva partecipato alla cerimonia del battesimo con la mente impregnata del suo ricordo e aveva cominciato a pensare a lui già prima che la cerimonia avesse inizio. Le tornò infatti in mente che entrando nel tempio dove si sarebbe officiata la messa, si era emozionata vedendo al centro dell'altare la croce che per lei simboleggiava Quetzalcoatl, anche se per gli spagnoli era una cosa diversa, e non aveva potuto evitare di commuoversi. Mai, in nessun momento, aveva abiurato la sua fede, eppure l'ocote non voleva obbedirle e la cosa era di malaugurio. Angosciata, Malinalli cominciò a sudare. Per risolvere quell'inconveniente decise quindi di andare a cercare un po' di erba secca e si avviò attraverso il prato in cui pascolavano i cavalli. Quando li ebbe davanti, Malinalli si fermò e tra tutti riconobbe quello che l'aveva guardata al momento del suo battesimo. Il suo silenzioso amico si avvicinò e per qualche minuto rimasero a guardarsi negli occhi. Fu un momento magico di ammirazione e riconoscimento reciproci. Tra tutte le strane cose che gli stranieri avevano portato con sé, erano stati proprio i cavalli ad attirare di più la sua attenzione. Malinalli non aveva mai visto animali come quelli e ne era rimasta affascinata al punto che la seconda parola spagnola che aveva imparato dopo Dio era stata cavallo. I cavalli le piacevano moltissimo, erano come dei grossi cani, con la differenza che nei loro occhi ci si poteva specchiare per intero. Gli occhi dei cani non avevano mai quella nitidezza, e men che meno quella dei cani spagnoli, che non somigliavano affatto agli squintles, i cani degli indigeni. I cani spagnoli erano aggressivi, violenti, avevano uno sguardo crudele. Gli occhi dei cavalli invece erano buoni. Malinalli sentiva che negli occhi dei cavalli si rifletteva tutto ciò che una persona provava, erano specchi dell'anima. Il primo contatto con i cavalli l'aveva avuto il giorno stesso in cui era arrivata all'accampamento. Malinalli non avrebbe saputo descrivere con le parole la sensazione che aveva provato sfiorando con la mano la criniera di un cavallo. Gli squintlis non avevano né il mento né le dimensioni di quegli splendidi animali. Ciò nonostante, aveva amato i cavalli prima ancora di toccarli, li aveva osservati da lontano durante la battaglia di Cintlar e li avevano colpita moltissimo. Quel giorno, in vista del combattimento, donne e bambini erano stati allontanati dal villaggio e messi al riparo a prudente distanza, ma in Malinalli la curiosità era stata più forte dell'obbedienza. Alcune persone che avevano già visto gli spagnoli in sella ai loro destrieri le avevano detto che gli stranieri erano metà uomini e metà animali, altri che i cavalli erano metà uomini e metà dei, altri ancora che erano un'unica creatura. Malinalli, decisa a risolvere l'enigma, era andata ad appostarsi in un luogo da dove avrebbe potuto osservare la battaglia senza rischiare la vita. A un certo punto uno spagnolo era arrotolato a terra e lei aveva visto che il cavallo, nonostante stesse fuggendo a gran velocità, faceva di tutto per non calpestarlo con gli zoccoli. Preso in mezzo dalla fuga precipitosa degli altri cavalli, ritrovandosi il padrone tra le zampe, l'animale non aveva potuto evitare di calpestarlo. Ma le aveva fatto con la massima delicatezza, senza appoggiarsi con tutto il peso sulle zampe per non fargli troppo male. Da quel momento Malinalli aveva provato grande ammirazione per i cavalli, quei maestosi animali che non facevano volutamente del male a nessuno, capaci di una lealtà a tutta prova, degni di assoluta fiducia, cosa che non si poteva dire di tutti gli esseri umani. Gli occhi di Cortés, per esempio, erano piuttosto sconcertanti: da una parte l'attraevano, dall'altra non le ispiravano certo fiducia. A volte il suo sguardo somigliava più a quello dei cani che a quello dei cavalli. Anche il suo corpo era come quello di un animale selvatico, rude, forte, e anche il pelo che gli copriva le braccia, il petto e il viso confermava questa impressione. Gli indigeni erano praticamente glabri e Malinalli non aveva mai visto un essere umano tanto peloso. Moriva dalla curiosità di scoprire cosa si provava ad accarezzarlo, a passargli la mano sul petto, sulle braccia, sulle gambe, sull'inguine. Purtroppo però lei era soltanto una schiava e doveva mantenere le distanze. D'altra parte le stava bene così. Aveva avvertito gli sguardi di Cortés sui suoi fianchi e sui seni. e non le era piaciuto. Gli occhi di Cortés erano come quelli che si incastonavano sui coltelli d'ossidiana con cui i sacerdoti strappavano il cuore ai sacrificati. Erano occhi in cui non si poteva avere fiducia perché, come i coltelli, con gli occhi potevano trapassarti il petto e strapparti il cuore. Malinalli preferiva quelli del suo nuovo padrone, il signor Portocarrero, che si limitavano a guardarla con indifferenza. L'indifferenza le era familiare, era una cosa con cui si era abituata a convivere e che la faceva sentire a suo agio. Per compiacere il nuovo padrone doveva solo svolgere i compiti che lui le assegnava. Malinalli raccolse in fretta una bracciata d'erba secca, accese il fuoco senza ulteriori difficoltà e cucinò le tortiglia per il suo padrone. Si sentì subito sollevata, aveva acceso il fuoco nuovo, in una maniera nuova, con un nuovo nome, per nuovi padroni che avevano nuove idee e nuove abitudini. Si sentiva piena di gratitudine, certa di essere finita in buone mani, fiduciosa che i nuovi dei fossero sbarcati su quelle terre per abolire i sacrifici umani. Con un nuovo nome, appena battezzata e purificata, Malinalli cominciava, accanto a Cortés, la fase più importante della sua vita. Nel focolare il fuoco era potente e lei prese il soffietto per ravvivarlo ancora di più. Quella di accendere il fuoco era una cerimonia importante. Malinalli ricordò con sorprendente chiarezza l'ultima volta che l'aveva acceso con la nonna. Era ancora piccola, era mattina presto e la nonna le aveva detto: «Oggi lascerò questa terra. Non vedrò crollare l'universo di pietra, negli scritti di pietra, nei fiori di pietra, nelle tele di pietra che abbiamo costruito affinché fossero specchi degli dèi. Oggi il canto degli uccelli porterà la mia anima in cielo e il mio corpo, rimasto senza anima, tornerà alla terra e al fango, dove rimarrà fino al giorno in cui si sveglierà ancora una volta nel sole che si nasconde dentro al mais. Oggi i miei occhi fioriranno e io lascerò queste terre. Ma prima voglio seminare nella tua pelle tutto il mio amore». Allora, senza alcun preavviso, aveva cominciato a piovere forte. La nonna era scoppiata a ridere e il suo riso aveva riempito di musica tutta la stanza. Malinalli non sapeva se ciò che la nonna aveva appena detto, che se ne sarebbe andata da qualche altra parte, fosse uno scherzo o una cosa seria. Sapeva soltanto che lei e la nonna avevano la stessa età, che fra loro non c'era distanza né di tempo né di spazio, che con quella amatissima nonna bambina poteva giocare e condividere desideri, inquietudini e fantasie. La nonna le aveva detto di andare pure fuori a giocare nella pioggia. La bambina divertita aveva obbedito. Fuori tutto si stava rapidamente trasformando in fango. Nonna e nipote si erano sedute per terra vicine e avevano cominciato a giocare appassionatamente con la terra bagnata, modellando forme di animali e figure magiche. La vecchia era come impazzita, sembrava avere perso completamente il controllo di sé e condivideva le discolaggini della nipotina. Poi la nonna le aveva chiesto di coprirle gli occhi di fango per rinfrescarli. La bimba le aveva carezzato il viso con le manine, cercando di realizzare come meglio sapeva i suoi bizzarri desideri. Poi, tutta impiastricciata di fango, la nonna aveva detto: «La vita ci offre sempre due possibilità, il giorno e la notte, l'aquila e il serpente, la costruzione e la distruzione, il castigo e il perdono. Ma poi c'è sempre una terza possibilità nascosta che unifica le prime due, e tu dovrai scoprirla». Dopo aver pronunciato queste parole, la nonna si era alzata in piedi e con gli occhi coperti di fango le aveva indicato il cielo. «Guarda, piccola mia, le nuotatrici dell'aria!» Malinalli aveva alzato gli occhi e aveva visto lo strano volo che alcune aquile stavano eseguendo sopra le loro teste. «Ma come hai fatto a sapere che c'erano se non le vedi?» «Perché sta piovendo. E l'acqua mi parla, mi indica la forma degli animali che accarezza, mi dice quanto è alto e duro un albero dal modo in cui risuona quando lo colpisce. E molte cose ancora. Per esempio, il futuro di ogni persona che i pesci dell'aria disegnano in cielo affinché noi possiamo indovinarlo. Il mio è chiarissimo. I quattro venti mi hanno mandato un segnale». In quel momento l'atmosfera si era fatta arancione e un'esplosione di luce aveva avvolto nonna e bambina, lasciandole come incantate, trasformate, sollevate dalla pesantezza della vita, libere di galleggiare in una leggerezza di sogno. Poi la nonna aveva cominciato a cantare in diversi dialetti, con parole incomprensibili, abbracciando la nipotina con nostalgia e con infinito amore. Dopo un po' le aveva chiesto di raccogliere tutti i ciuffi d'erba secca che riusciva a trovare e insieme avevano acceso il fuoco nuovo con le brace del giorno prima. E mentre i rami bruciavano, le aveva detto: «Tutti gli uccelli hanno preso la loro forma dal fuoco. Anche il pensiero ha origine dal fuoco. e lingue di fuoco pronunciano parole fredde e precise come la verità più scottante che le labbra possono dire. Ricordati, le parole possono ricreare di nuovo l'universo. Ogni volta che ti sentirai confusa, osserva il fuoco e affidagli con fiducia la tua mente. Affascinata, Malinalli aveva completato le mille forme nascoste nel fuoco finché la legna non si era consumata del tutto. Allora la nonna le aveva scritto dicendo: Ricordalo sempre, non c'è sconfitta che il fuoco non possa cancellare. Voltandosi a guardarla, la bimba aveva visto grosse lacrime scorrere tra la terra che le copriva le palpebre. Dalla cesta in cui conservava i suoi averi, la vecchia aveva preso una collana e un bracciale di giada e dopo averne adornato la nipote, l'aveva benedetta con voce serena. Che la terra sia tutt'uno con la pianta dei tuoi piedi e ti regga con fermezza che sostengo il tuo corpo quando perderai l'equilibrio. Che il vento ti rinfreschi le orecchie e vi sussurri dentro le risposte che sapranno curare tutto ciò che la tua angoscia si inventerà. Che il fuoco alimenti il tuo sguardo e purifichi gli alimenti che nutriranno la tua anima. Che la pioggia ti sia alleata, ti conceda le sue carezze e lavi via dal tuo corpo e dalla tua mente ciò che non ti appartiene. A questo punto la bambina aveva intuito che la nonna stava prendendo congedo da lei e con voce triste le aveva supplicata: Non lasciarmi, Citri, non andare via. Te l'ho già detto, io non mi allontanerò mai da te. Mentre l'abbracciava forte, la copriva di baci, la nonna le aveva offerto silenziosamente il sole. L'aveva benedetta nel nome di tutti gli dèi e senza parlare aveva detto che Malinalli sia colei che spaventerà la paura, che sia la vittoriosa sulla paura, colei che farà scomparire la paura, che la incenderà, la metterà in fuga, la cancellerà, colei che non avrà mai paura. Malinalli era rimasta coccolata in braccio alla nonna fino a quando dentro di lei la pace non si era fatta completa. Poi, allontanandosi, aveva scoperto che la nonna non si muoveva più. Ormai non apparteneva più al tempo, era evaporata dal suo corpo e la sua lingua era tornata al silenzio. E comprendendo che quello era la morte, aveva pianto. In quel momento, mentre cominciava una nuova vita e accendeva un nuovo fuoco accanto a nuovi padroni, Malinalli si sentì felice. Fino ad allora tutto era andato come aveva sperato. Voleva credere che il tempo delle lacrime fosse definitivamente finito. Sentiva una sorta di rinnovamento interiore. I pochi giorni che aveva trascorso all'accampamento degli spagnoli erano stati indimenticabili. Mai, nemmeno per un attimo, si era sentita minacciata o insicura. Naturalmente non c'era arrivata da sola e non tanto per le altre 19 fanciulle schiave che avevano viaggiato insieme a lei, quanto perché portava con sé tutto il suo passato, che la avvolgeva e la riscaldava, il suo passato individuale e familiare e quello cosmico. Al collo aveva la collana di giada della nonna, alle caviglie, campanellini, e indossava un huipil che lei stessa aveva tessuto e decorato con piume preziose che rappresentavano una scala per il cielo, la scala che un giorno anche lei avrebbe percorso per ritrovare sua nonna.